Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, siete tornati all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione pensata mettendoci nella pelle, nella pelliccia, nelle squame e nelle piume degli altri animali, per guardare il mondo e soprattutto la società umana con i loro occhi, il loro sguardo. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Torniamo a collegare la questione animalista al terremoto per due motivi. Il primo è che è stata estratta viva dopo 12 giorni la gatta Carina, sorella di Gioia, altra gatta che fece scalpore in quanto venne estratta dalle macerie dopo 5 giorni e aveva fatto gridare al miracolo. Le sette vite dei gatti non sono solo una leggenda, se questa Carina ha resistito addirittura per 12 giorni, trascorsi in condizioni incompatibili con la vita, come le hanno definite gli stessi veterinari dell'ENPA che l'hanno visitata. I vigili del fuoco stavano rimuovendo le macerie della casa per liberare dai detriti il centro storico di Amatrice e il ritrovamento di Carina è stato quindi puramente casuale, inaspettato ed eccezionale. La prognosi, spiegano i veterinari della protezione animali, è riservata, ma Carina ha ripreso a mangiare e noi le auguriamo naturalmente di farcela e di ricongiungersi presto al resto della sua famiglia. Sempre sul tema del terremoto ci ha colpiti l'editoriale di Anna Mannucci nel blog Animalista nel Cuore. Anna Mannucci protesta perché vengono appellati sciacalli, quei disgustosi delinquenti che vanno a rubare nelle case abbandonate perché colpite dal terremoto. Più in generale vengono chiamati sciacalli coloro che si approfittano delle disgrazie altrui. Ma gli sciacalli animali, dice Mannucci, non fanno niente di simile, sono brave persone, sono persino monogami a vita. Appartengono al genere Canis, come i cani e i lupi, e somigliano a dei lupacchiotti di piccola media taglia, con qualcosa della volpe nella forma delle orecchie e del muso. Sono onnivori, mangiano un po' di tutto, vegetali, piccoli mammiferi, uccelli e rettili, e i cadaveri di animali già morti o uccisi da altri. E questa sarebbe la loro grave colpa, almeno nell'immaginario popolare umano, e quel che è peggio, nell'immaginario dei giornalisti. Insomma, gli sciacalli fanno quello che fa il 99% degli esseri umani, si nutrono di animali ammazzati da qualcun altro, con la differenza, aggiungiamo noi, che il loro cibo devono procurarselo giorno per giorno e spesso non hanno scelta, cioè non hanno i supermercati come abbiamo invece noi. Sono dei validi operatori ecologici, conclude Anna Mannucci, perché eliminano i rifiuti organici e riciclano proteine che altrimenti andrebbero sprecate. Propongo di trovare un altro termine per definire gli umani che fanno sciacallaggio e ridare agli sciacalli animali la loro perduta dignità. Siamo molto d'accordo con le conclusioni di Anna Mannucci. Questo editoriale lo troverete nel blog Animalista nel Cuore. La trasmissione deve molto a un libro intitolato Se niente importa, il cui autore è Jonathan Safran Foer. Se non ci fosse stato quel libro, forse alcune persone della nostra redazione non avrebbero mai fatto la connessione, non si sarebbero addentrate così ostinatamente nella questione animale. Lo scrittore ebreo-americano Jonathan Safran Foer, classe 1977, il primo settembre era a Milano per presentare il suo nuovo e attesissimo romanzo Eccomi, edito da Guanda, che esce 11 anni dopo il suo precedente successo intitolato

Forse potremmo aggiungere la zuppa di fagioli del Timicua. Non è un pensiero così assurdo. I tuoi cari intorno alla tavola. Ascolta i suoni, annusa gli odori. Non c'è il tacchino. La festa è forse compromessa? Il ringraziamento non è più il ringraziamento? O il ringraziamento ne uscirebbe ancora più forte? La scelta di non mangiare il tacchino sarebbe un modo più sentito per celebrare la nostra gratitudine? Ispirato da questa gustosa lista di alternative cruelty free elencate dall'autore Jonathan Safran Foer nel suo famoso saggio Se niente importa, il tosco vegan chef Gabriele Palloni ci consegna una ricetta da sfruttare subito in quanto di stagione. Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Écoutez, à midi. Quelle heure est-il? Il est midi. C'est l'heure de déjeuner. In un passaggio del suo libro Eating Animals, Jonathan Safran Foer, parlando di alternative culinarie per il giorno del ringraziamento, cita la famosa torta di zucca e noci pecan. E come potevamo resistere a questo fantastico assist? Le dosi per uno stampo da plum cake per 6 persone sono 100 g di farina 00, 100 g di mandorle, 150 g di zucchero di canna, 50 ml di olio di semi di girasole, 100 g di zucca, una mela, 50 g di uvetta, 50 g di noci pecan tritate, 5 chiodi di garofano, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di curcuma in polvere, un pizzico di sale. Quelle ora è? Quelle ora? Quelle ora? Per prima cosa lasciate in infusione i chiodi di garofano in 200 ml di acqua calda. Unite l'uvetta e lasciate in ammollo fino a quando l'acqua si sarà raffreddata. Nel frattempo tritate le mandorle assieme allo zucchero di canna in un mixer fino ad ottenere una farina. Il è midi, midi, midi, il è midi. A parte grattugiate sia la zucca che la mela. Togliete i chiodi di garofano dall'acqua e scolate l'uvetta. Unite l'acqua aromatizzata all'olio di semi. A parte setacciate le farine ed il lievito. Unite la farina di mandorle e zucchero di canna, la curcuma e il pizzico di sale. Unite le polveri alle parti liquide tutte assieme, mescolando con una frusta. Continuando a lavorare con una spatola in silicone o un mestolo di legno, aggiungete la zucca e la mela grattugiate, le noci pecan e l'uvetta. Versate il composto in uno stampo da plum cake che avrete precedentemente spennellato di olio e spolverato con poca farina. Il è midi, midi, midi, il è midi. Infornate a 180 gradi per 40 minuti circa. Una volta cotto, lasciate raffreddare la torta per 15 minuti e almeno un'ora dopo averla tolta dallo stampo. Servite con una spolverata di zucchero a velo. Nell'attualità va riportato il fatto che un esercito ben armato ha già cominciato a invadere boschi e campagne con grande anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge nazionale. È l'esercito dei cacciatori, si parla di circa 700.000 persone, pochi rispetto a quanti erano qualche decennio fa, ma sempre moltissimi, pronti a sparare su qualsiasi animale abbia la sventura di trovarsi sulla lista delle specie cacciabili. Si chiama preapertura e significa che alcune regioni derogano alla legge e stabiliscono calendari venatori anticipati che in alcuni casi sfidano apertamente le norme europee e quindi procureranno anche nuove procedure di infrazione e multe da pagare all'Europa. È curioso e anche un po' imbarazzante, aggiungiamo noi, che nel panorama politico italiano non ci sia il minimo dibattito su questo argomento, eppure la perdita di biodiversità è una delle principali emergenze del nostro tempo, assieme alla sovrappopolazione, ai cambiamenti climatici e all'inquinamento di aria, acqua, terre e mari. Anche il bilancio di vittime umane dopo ogni stagione venatoria non scherza e dopo la prima giornata di preapertura si registra già la prima vittima ed è un cacciatore stesso ad essere morto. L'ultimo rapporto Eurispes pubblicato quest'anno fissa a 68,5% la quota delle persone contrarie alla caccia, ma governi e parlamenti che si succedono in Italia non sembrano interessati a disturbare le lobby venatorie ed è ancora consentito addirittura l'allevamento di richiami vivi, uccelli dotati di ali e quindi etologicamente progettati per volare, condannati a una misera vita in gabbia. Ne sanno qualcosa a Sacile, dove anche quest'anno si è svolta la tristissima sagra dei Osei, una compravendita di pennuti in gabbia, uccelli i cui lamenti vengono chiamati canto. La nostra corrispondente Francesca De Matteis ha intervistato Alessandra degli Animalisti del Friuli Venezia Giulia per un bilancio dell'edizione 2016. Sentiamo. Riteniamo che sia importante esserci per ribadire il no a questa fiera ornitologica, perché possono chiamarla festa della natura, tradizione. In realtà è una fiera ornitologica, è nata per questo è ad agosto, avviene ad agosto perché era il periodo in cui i cacciatori si preparavano per acquistare gli uccelli da richiamo e poi a settembre, con l'apertura della caccia, utilizzarli per andare a caccia e richiamare gli altri uccelli. Nel corso degli anni si è ingrandita, sono aumentate anche gli animali in vendita, esposti, quindi non solo gli uccelli da richiamo, ma anche pappagalli e poi via via un po' di tutto. Quest'anno c'erano anche i pipistrelli, il gufo reale, non mancava nulla. I cani con la gara di agility, anziché i cavalli con il giro in carrozza, le dimostrazioni di monta, tra virgolette, etica. Sembrava un po' una cosa tipo istruzioni per l'uso. Tutto il paese, tutto il centro del paese è una immensa distesa di gabbie a cielo aperto. Quelle degli uccelli da richiamo sono piccolissime. Quest'anno addirittura è stata approvata una deroga che si potevano utilizzare gabbie ancora più piccole, 20 per 30 centimetri, cose veramente assurde. Con la nuova legge non si possono più cacciare uccelli in natura per trasformarli in uccelli da richiamo. Però resta il fatto che l'allevamento non è affatto meno invasivo, significa far nascere degli individui per vivere in gabbia tutta la loro vita e richiamare anche altri uccelli che verranno uccisi attraverso il loro canto di richiamo. Impressionanti sono le quaglie destinate proprio al canto. Vengono inserite dentro, piccolissime, vengono allargate le maglie, infilate dentro. La gabbia non si può aprire, quindi vivranno tutta la loro vita, se di vita si può parlare, sommersi dalle loro feci. Il cibo viene buttato dentro e quello che mangiano lo mangiano gettato sopra le loro feci. Queste gabbiette, che sembrano un po' di fiaschetti, hanno in alto anche una parte di stoffa, perché la quaglia spicca al volo in verticale e non rinuncia mai per tutta questa vita a tentare di uscire, quindi continuano a fare questi balzi e si romperebbero l'osso del collo. Sono delle forme di ribellione continue. Ogni cambiamento ha bisogno di tempo, di informazione. Il punto è che comunque manifestare non si può fare solo la domenica, la terza domenica di agosto. È un lavoro che deve avvenire tutto l'anno. Quindi è un lavoro che va fatto giorno per giorno, cercando di non perdere la speranza, i sogni, che sono l'unico punto fermo di forza per andare avanti. brutte notizie sui pennuti, finalmente una bella notizia che riguarda i nostri amici lupi. Il lupo torna addirittura al parco di San Rossore in Toscana e il WWF divulga un comunicato per annunciare che con metodi non violenti gli attacchi dei lupi agli animali da allevamento vengono ridotti dell'80%. Lo rivela una ricerca pubblicata nella rivista specialistica Frontiers in Ecology and the Environment. Purtroppo in molte parti del mondo però è diffuso l'abbattimento di lupi, orsi e altri grandi felini come soluzione per evitare danni al bestiame. I risultati dello studio però dimostrano e confermano che l'abbattimento è una cura peggiore del male. Nel caso si utilizzino metodi non letali come l'uso di cani da guardia per le greggi, recinzioni elettriche o dissuasori come il nastro segnaletico, si ha un'efficacia nell'80% dei casi e i danni al bestiame sono diminuiti. Per questo, sulla base dell'attuale stato delle conoscenze, gli scienziati consigliano alle autorità e alle persone competenti di non prendere più in considerazione l'abbattimento dei predatori per proteggere gli animali domestici. E questo è l'ennesimo sforzo del WWF per cercare di fermare il ministro italiano dell'Ambiente e dell'Agricoltura, che per distrarre gli agricoltori allevatori accarezza da tempo l'idea di concedere una deroga alla protezione dei lupi. Però noi sappiamo che i problemi del mondo agricolo sono altri, cioè l'embargo alla Russia, l'introduzione di grano da altri paesi extraeuropei, la caduta a picco dei prezzi, insomma, vedremo chi la spunterà. Noi siamo ovviamente dalla parte del lupo e pensiamo che il lupo sia una risorsa e non un problema. Una notizia di respiro internazionale: il gorilla dell'Africa dell'Est è a un passo dall'estinzione. Lo denuncia l'International Union for Conservation of Nature, che ha pubblicato proprio in questi giorni il proprio report dal titolo Red List of Threatened Species, in cui risulta che il gorilla in questione è passato da specie a rischio estinzione a specie a grave rischio estinzione. Ciò significa che 4 delle 6 grandi scimmie, i parenti più prossimi dell'uomo, sono oggi a rischio estinzione. Anche le zebre di pianura sono in grave pericolo dal momento che la loro popolazione si è ridotta di un quarto negli ultimi 14 anni a seguito della caccia illegale. Si parla anche di questo, cioè di uomini, di animali, di compassione e crudeltà, nella rubrica dedicata ai consigli letterari della settimana. Lorenzo Guadagnucci ha recensito per noi il libro Cose viste di Pietro Del Re. C'è una discussione in corso nel mondo animalista, una discussione a dire il vero un po' stanca, tra chi sostiene che la novità di questi anni è un nuovo impegno antispecista, un nuovo paradigma, una critica sociale profonda e a tutto campo, a partire dalla condizione animale, con un approccio quindi più largo rispetto al tradizionale impegno delle associazioni animaliste. C'è poi una visione, diciamo così, più conservativa, che con parole nuove e concetti aggiornati conferma la necessità di concentrarsi sugli animali, agendo in loro favore, un po' come si è sempre fatto, mantenendo su binari separati la questione animale da tutto il resto. È una discussione prevalentemente teorica che suscita qualche emozione, soprattutto fra gli addetti ai lavori, in particolare attivisti animalisti, i quali generalmente sono più propensi a una valutazione ad occhio e croce ad accogliere la seconda tesi, che in qualche modo conferma percorsi tradizionali e consolidati. Poi ci sono libri come questo di Pietro Del Re, Cose viste, pubblicato dalla Terza, che non affronta questioni teoriche ma mostra quanto sia rivelatrice e forte la prospettiva di un'analisi dell'attualità, della società e soprattutto delle sue brutture, in testa a guerre e disastri ecologici, che includa nello sguardo gli animali non umani. Del Re è un giornalista di Repubblica, un inviato di guerra, e in questo libro racconta con un respiro più largo rispetto alla cronaca di giornale i conflitti che ha seguito in questi anni e le parti di mondo che ha visitato. Si parla dell'assedio di Aleppo e degli orrori in Ruanda col genocidio dei Tutsi compiuto a colpi di macete, ma anche della sorte dei cani in Romania, vittime predilette di un sistema sociale crudele che infierisce sui perdenti, o dei gorilla vittime di bracconaggio in Congo. Del Re visita anche parchi e foreste, spingendosi fin sulle montagne del Mozambico, in un'area rimasta fino a poco tempo fa inesplorata, E poi, scrive Del Re, deflorata da una ventina di botanici, erpetologi ed entomologi per catalogare specie animali e vegetali sconosciute. E ora anche quell'area è minacciata dalla pressione demografica e dalla caccia. Durante la guerra civile fra Frelimo e Renamo, scrive Del Re, massacravano gli impala, i leoni e gli elefanti. Sia per la carne con cui sfamare le soldatesche, sia per la vendita dei trofei con cui acquistare armi e munizioni. E nel pianeta che si accorge di essere nell'era geologica dell'Antropocene, un'era dominata da Homo sapiens in via di distruzione per sua mano, Del Re mostra luoghi del paradosso, come la foresta primordiale di Białowieża in Polonia, dove sopravvivono alcune centinaia di bisonti giganti, giunti sull'orlo dell'estinzione nei secoli scorsi e poi preservati fino a diventare un'attrazione per il turismo naturalistico, oppure quell'oasi olandese dal nome impronunciabile, qualcosa come Oostvaarderplassen, dove si è tentato di ricostruire addirittura l'ambiente primordiale, quando le pianure in Europa erano ancora popolate di grandi ungulati, poi sterminati. Raccontando la guerra in Kosovo, Del Re scrive così: «Ripensando alla tragedia di quel popolo, la mia memoria me ne offre anche un'altra, quella delle bestie del Kosovo, anche loro vittime, sia pure di rimbalzo, della furia dei serbi. Allora nessuno parlò delle miserie che patirono i cani, le vacche, le pecore e perfino i gatti del Kosovo. Il loro martirio fu ovviamente taciuto e passò inosservato, come se davanti al dolore degli uomini fosse sconveniente o addirittura immorale menzionare le amare vicissitudini occorse alle bestie». Pietro Del Re, Cose viste, Storie di uomini e altri animali, editore La Terza, 2016, 18 euro. Siamo in chiusura, vi ricordiamo le voci che hanno reso possibile questa puntata e che sono quelle di Jonathan Safran-Foer, Roberta Marino, Francesca De Maria, Alessandra degli Animalisti del Friuli Venezia Giulia, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Giuseppe Coco e la voce al microfono, quella di Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora! Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.